La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. La Costituzione dedica una decina di articoli alla magistratura e dalla lettura di questi articoli noi vediamo in maniera evidente la particolare garanzia della indipendenza e della terzietà dei magistrati. Perché? La ragione è ovviamente storica. I costituenti venivano da anni in cui la magistratura era stata esercitata come strumento politico, cioè il regime fascista aveva utilizzato la magistratura anche come strumento per combattere i suoi nemici politici. Ecco allora che la Costituzione impone una garanzia assoluta di rispetto della legge e di attuazione automatica delle norme di legge, in maniera che la magistratura sia una garanzia per tutti. Così, nell'articolo 102, leggiamo la limpidezza, la funzione giurisdizionale esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalla legge, dalle norme sull'ordinamento giudiziario, proprio per dare quell'idea, quasi da rivoluzione francese, che il giudice altro non è che la bocca della legge, la bouche de la loi, l'applicazione imparziale della legge. Per questa ragione, i commi successivi dell'articolo 102 vietano l'istituzione di giudici straordinari e giudici speciali. Anche lì, soprattutto il regime fascista aveva creato dei giudici ad hoc per valutare determinati fatti e quindi valutarli in maniera precondizionata. Ecco allora che il divieto è chiarissimo. Solo giudici ordinari. La funzione deve essere una funzione oggettiva, una garanzia imparziale esercitata da giudici che sono tutti uguali e che applicano la legge. L'ultima parte dell'articolo 102 prevede invece la partecipazione dei cittadini all'esercizio della giustizia. Ovviamente si evoca l'idea delle giurie popolari. Cioè, i cittadini possono essere chiamati a integrare i collegi giudicanti anche per dare una valutazione popolare più semplice accanto a quella dei giudici. Sappiamo che poi questo avviene soprattutto in determinati processi penali dove abbiamo le corti d'assise che sono integrate da cittadini.